Adesso comincia Bimbi dal basso. Radio Risacca. Voci dal quartiere. Radio Risacca. Voci dal quartiere. Radio Risacca. Voci dal quartiere. Radio Risacca. Voci dal quartiere. Un po' disturbato nel suo audio. Riprovi. Dalla spiaggia. Ciao! Questo era Capitan Harlock, che non è fascista come dicono i fascisti, anzi vuole la libertà. Corri ragazzo laggiù, vola tra lapidi blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Il gruppo d'acciaio che combatte ogni giorno per distruggere ogni autorità. Quando il domani... domani verrà, il tuo domani sarà. Con i tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità. Cos'è fa per la terra? Dove fa tra le stelle? Tu che puoi diventare un G. Dal passato arriverà una nemica civiltà, noi restiamo tutti con te perché tu... E adesso mettiamo un'altra canzone, sempre di Bimbi dal Basso, che è una canzone che vuole abbattere lo Stato. Per la decrescita. Prossima è la canzone di un cartone animato che guardo sempre quando sono a casa. Si chiama Dragon Ball e dice tutto il potere in mano ai lavoratori. しようぜ、ワクワクを100倍にして、パーティーの主役になろう。夢中になれるものがいつか君を救う。 sudo e a sumi surunda. Non tempi ca sola va are te. ゴールさせろ、へちゃんの花を咲かせて、みんなを笑わせちゃえ。いたずら好きな君が夢を競うライバルになるのさ。 Ci arriva ad un messaggio e ora lo leggiamo fra poco poco. Noi bambini di Ostia volevamo salutare Radio Risacca e la nostra amica di classe Cristina che si è fatta male e ha la bua. Ciao Radio Risacca, ciao antifascisti sempre. ものがいつか君をすげやすにするんだ。のてんぴか空は晴れていっぱいおっぱい僕元気トラブルと遊べやんちゃボーイ We got power ドラゴンボール。 La prossima canzone è Arrigan Polimà, che è un eroe che combatte i fasci. Polimà! Kasekiru Tekken Punch, punch, punch! Jigoku no akuma yo Ma quanto è figo Arrigan Polimà. Spacca! Genye Hariken Teki o azamuku kage kage kage Ore wa Hariken Hariken Polimà. Yeah, yeah, yeah! 地獄の獣吠えてみろ空に舞う細か竜巻必殺真空片手駒敵を欺く影影影俺はハリケーンハリケーンポリマハリケーンポリマ大地を蹴ってダダダ地獄の悪党受けてみろ に走る早手か稲妻必殺反動三段蹴り敵を欺く影影影俺はハリケーン ハリケーンポリマン。 ragazzi, ma è la sigla di Holly e Benji, che per noi non ci piace il calcio moderno, no alla pay TV, no al football business, viva gli scontri! Grandi, Holly e Benji, viva il calcio popolare! A me mi piace tanto lo sport e infatti gioco tanto a pallone, però gioco pure alla pallavolo e infatti questa prossima canzone è una canzone della pallavolo che parla di Mila e Shiro. Ora, cioè, Mila e Shiro erano una coppia, però secondo me erano un po' sessisti e noi siamo contro i sessisti. prossima è l'uomo tigre e parla di ammazzare i preti. Porco Dio! Solitario nella notte va, se lo incontro in gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Papà, misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa chi. Mamma me lo dice sempre che non devo dire certe parole, però quando ce l'ho, ce l'ho. Tigre. Papà culo. È l'uomo tigre che lotta contro il male. Io cane. Combatte solo la malvagità. Porco Dio. Ed ogni incontro vincere lui sa. Dio boia. Ma l'uomo tigre ha in fondo un grande cuore. Porco mio. Combatte solo per la libertà. Dio porco. Difende i buoni, sa cos'è l'amore. Il nostro eroe mai si perderà. Ha tanti amici e grande la bontà. Porco Dio. Orco Dio, orco Dio, orco Dio. Porco Dio! Tutti sanno che è invincibile, lui sul ring è formidabile, nella lotta è temibile il tigre. Dio porco! Tigre! Dio porco! Tigre! Dio boia! Nella tana delle tigri lui di nascosto entra piano, poi con sorpresa sale tutti il tigre. Porco Dio! Tigre! Porco Dio! Tigre! Qualcuno si è arrabbiato perché diciamo troppe parolacce, però come diceva il bambino Faustino che è qua con me, vero Faustino? Quando ce vo, il prossimo pezzo è Chi smilicia, eppure questo è un pezzo contro il sessismo. Dello spazio e a Ostia ci hanno fatto credere che gli alieni erano i fascisti, invece i fascisti sono, cioè gli alieni sono compagni, e questo è Futurama. Thank you. questo è dedicato a tutti i mostri, perché i mostri sono buoni. Carletto, Carletto, essi buono. E pure al mio amico Carletto, il più matto di Tor Sapienza. Carletto, non tirare la coda al gatto. Carletto, non giocare col mio ritratto. Carletto di qua, Carletto di là. Questo non si dice, questo non si fa. Carletto, non picchiare la sorellina. Non chiudere la mamma nella cantina. Carletto, lo sai che fai sempre guai. E allora papà ti castigherà. E io che sono Carletto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta nel letto. L'ho fatta per fare un dispetto. Che bello scherzetto per mamma e papà. E io che sono Carletto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta nel letto. L'ho fatta per fare un dispetto. Che bello scherzetto per mamma e papà. Pure io l'ho fatta nel letto. Carletto, sì, buono. Lo sai che i bambini buoni non devono disubbidire al loro papà, eh? Oh! Carletto, non rubare la cioccolata. Non dire più alla nonna che è ingrassata. Carletto di qua, Carletto di là. Questo non si dice, questo non si fa. Carletto, leva i pesci dal frullatore. Carletto, togli il nonno dall'ascensore. Carletto, lo sai che fai sempre guai. E allora papà ti castigherà. L'ha fatta nel letto, bello scherzetto. Io che sono Carletto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta nel letto. L'ho fatta per fare un dispetto. Che bello scherzetto per mamma e papà. E io che sono Carletto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta nel letto. L'ho fatta per fare un dispetto. Che bello scherzetto per mamma e papà. E io che sono Carletto, l'ho fatta nel letto. Canzone prima, volevamo mettere questa, Carletto e Principe dei Mostri. Oh, ma quanto è figa sta canzone. Sono il mostro Frankenstein. Io sono il conte conte Dracula, ulala. Io sono l'uomo lupo famelico. Siamo mostri strani ma con molta umanità. Sono buono e stritolo. Io bevo il pomodoro. Se c'è la luna piena sai che arrosto vi farò. Ogni mezzanotte l'orologio fa di don. 12 ritocchi per i mostri fa di don. Ehi Mariolino, ci hanno mandato un messaggio. Oh madonnina, vediamo che ci hanno scritto. I bambini buoni vanno in paradiso. I bambini e le bambine cattivi vanno dove gli pare. Con Carletto quasi quasi. A noi piacerebbe andare dove ci pare, perché crediamo in un mondo senza confini. Sì, dove ci pare. Io sono tenero dentro di me. Io sono il conte, puoi contare su di me. Buon appetito, si va tutti a tavola. Topi, ranocchi e ragni, poi bignè. No, non siamo angeli, ma vogliamo su. Quando c'è la luna piena, il cielo si fa tutto blu. Blu, sono un uomo lupo. Sono il vostro Frankenstein. Io sono il conte, conte da qui, laulala. Ma quel mostro di Carletto dov'è? Alto, basso, largo, stretto, dai Carletto. Mezzanotte l'orologio fa di don. 12 ritocchi per i mostri fa di don. Dai Carletto, sveglia, tirati su. Lungo, corto, grasso, secco, dai Carletto, che tocca a te. Alto, basso, largo, stretto, dai Carletto. Ducati. Il prossimo pezzo lo vogliamo dedicare a tutti i bambini dentro. Cioè, nel senso, vabbè. Il prossimo pezzo parla di Gufo Robot che mangia insalata di matematica e quindi è vegan. Prossima è la musica di Kenil Guerriero, perché noi non vogliamo morire di morte nucleare. Non ci piacciono le droghe che ci passano per non farci parlare. Mai, mai scorderai l'attimo. Ma quanto spacca Kenil Guerriero? L'aria si incendiò e poi silenzio. E gli avvoltoi sulle case sopra la città senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Da quest'incubo nero ci risveglierà, chi mai potrà? Che sei tu, fantastico veniero, sceso come un fulmine dal cielo. Il nostro condottiero Adesso ci è venuto a trovare un amichetto che vuole dire una cosa. Dai forte, dai forte! Magia, stella dell'orsa maggiore, stella su di noi, guerriero mai. Che sei tu, col pugno tu di un cuore, tu che ne so capa la morte. Che sei tu, l'acciaio nelle mani, tu la mia speranza nel domani. Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò. Mai, mai tu vivrai giorni felici. La prossima canzone è di Conan e la vorremmo dedicare a tutti i compagni che sono stati colpiti dall'operazione Bialystok. Un grandissimo abbraccio dai Bimbi dal Basso. Ciao! Liberi tutti! C'era una volta una città in quell'isola. Passava di là, proprio dove vivi tu. C'era allegria, c'era felicità, ma la guerra è una follia. Ma se qualcuno sorride a te, un domani ancora c'è. Adesso c'è un pezzo di Lamù, che è la diva della casa occupata, che è Lamù, cioè... già, scappo, resto tu contorno, chi lo sa. La prossima è la canzone di Lupin e la dedichiamo a tutti gli amici dei supermercati che ci offrono sempre la cena. Grazie! Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza Lupin. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me, se gioielli e denari e tesori. Volando come un gatto se ne va, sopra i tetti, sotto i ponti, Lupin. Quanti cani poliziotti ha dietro se, ma sarà un osso duro, Lupin. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha. Sembra giusto, però non si fa. Compagno Lupin! A me però che no, è simpatico e non saprei dire di no, Lupin, il mio cuore da no. Effetto. I soldi sono a chi ci per dargli a chi ci siamo imparati a mettere che un po' a me però è simpatico e non saprei dire di no, Lupin, il mio cuore da no. Allora, la prossima la dedichiamo alla nostra amica Yolanda, che l'altra settimana si è fatta male sugli scogli. Ma severo, coraggioso e battagliero, Yattaman. Yattaman, Yattaman, nemico da battaglia. Yattaman, Yattaman, con gran comicità. Yattaman, Yattaman. Bimbi, bimbi dal basso sta per finire, perché se no ci viene una sincope. Elettronico corsaro Yakama. Si chiama Tommaso. Che me! Che me! Che me! Un saluto da Bimbi dal basso. Ciao amici, grazie per averci ascoltato. Grazie a Jacopo e Angelica che ci hanno mandato i messaggi. A Diego, a Yolanda, a Marco e tutti quelli che ci hanno scritto e ci hanno chiesto le canzoni. Ciao! Ci vediamo alla scuola che deve bruciare. Mix in a cup of flour. You'll be in heaven soon. Say everybody, have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Ooh.